Buonasera a tutti, io sono Patrizio Mazzucchelli, Rezia Biodiversità Alpine e sono in Valtellina a Teglio. Prima di tutto voglio ringraziare questo luogo, il Centro Sociale Leoncavallo. Eravamo presenti qua 10 anni fa come comunità produttori grano saraceno e cereali alpini tradizionali e ritornare qua ci fa sicuramente piacere, mi fa piacere anche a me. In 10 anni un po' di cose sono cambiate, se vi dovessi parlare di tutto quello che è successo in questi anni ci sarebbe veramente da stare qua ore. Vi parlo intanto dei cereali alpini, del grano saraceno, della segale e dell'orzo. Allora, quello che stiamo facendo, quello che sto facendo, ma quello che stiamo facendo anche come associazione produttori grani saraceni, intanto da comunità siamo diventati associazione, è quello di riprendere un attimino le coltivazioni dei cereali, recuperare terrazzamenti in quota per chi conosce la Valtellina o per chi non la conosce, i terrazzamenti in Valtellina erano fatti da vigneti, cereali e gli ultimi muretti erano quelli dedicati alle selve di castagno. Ora, la pratica maggiore che si è sviluppata in questi ultimi 30 anni è l'abbandono, la pratica dell'abbandono. Con il ritorno della coltivazione del grano saraceno e degli altri cereali, della segale e dell'orzo, stiamo recuperando parte di questi terrazzamenti e stiamo sviluppando delle filiere territoriali, identitarie. Perché? Perché queste filiere producono non solamente dei prodotti autoctoni che hanno una storia. Il grano saraceno, ad esempio, è presente in Valtellina dal 1500, più o meno, alcuni dicono 1600, altri documenti che abbiamo trovato dal Canton Grigioni dicono addirittura la fine del 400. Noi abbiamo avuto una grandissima produzione di grano saraceno fino agli anni 70, poi dagli anni 70, con la pratica dell'abbandono, grano saraceno è venuto sempre a calare. Come abbiamo fatto? Siamo partiti, devo dire la verità, da una... da una consapevolezza che questi terrazzamenti e questi prodotti andavano man mano scomparendo. Ci siamo accorti che quello che era rimasto perché, ad esempio, a Teglio, Teglio vuol dire non solamente la parte centrale, ma anche le frazioni, è un comune molto grande, inizia in cima alle Retiche, prende tutta la valle e finisce in cima alle Orobiche, per cui è un comune che si estende veramente in maniera massiccia. E abbiamo avuto queste 4-5 famiglie che io considero non solamente degli eroi perché hanno mantenuto, ma li considero degli esempi e dei custodi dei semi. Qui ho portato una fotografia della Gennara e di suo marito su un campo di grano saraceno, è una fotografia che ha qualche anno perché intanto sono invecchiati, però la pratica è stata fino almeno 5 anni fa ancora una pratica che era totalmente fatta a mano, con pochissimi macchinari. Allora, queste persone e soprattutto la loro pratica che è continuata negli anni nonostante c'era sempre meno volontà di coltivare, ci ha permesso non solo di mantenere il seme, ma anche di mantenere le competenze e i saperi legati alle coltivazioni. Allora, dovete sapere prima di tutto una cosa, in Valtellina, in un campo, noi facciamo 2 raccolti all'anno. A novembre seminiamo la segale che raccogliamo a giugno, in primavera, a marzo seminiamo l'orzo, in questo caso la Dumega, che è un orzo distico, che è questo. Raccolti questi nello stesso campo seminiamo il grano saraceno, che poi andiamo a raccogliere diciamo dall'inizio di ottobre alla fine di ottobre. Il grano saraceno è un ciclo breve, 90 giorni, per cui in 90 giorni è pronto. Queste pratiche anticamente hanno permesso la sussistenza degli abitanti del luogo, perché quando c'erano i livelli, per cui prima dei patti agrari e così via, il cereale più importante, che in questo caso era la segale, doveva essere dato al proprietario dei terreni, mentre il grano saraceno rimaneva per sfamare i contadini che lavoravano. Ora, noi siamo partiti con una campagna, diciamo, promossa dalla biblioteca, dal Centro Tellina di Cultura, dalle stesse famiglie che erano rimaste a coltivare, che ci hanno fornito i semi. Siamo partiti nel 2000. Nel 2000 avevamo 7.000 metri quadri complessivamente coltivati a teglio. Adesso siamo a 130.000 metri quadri, cioè i dati del 2013. Quest'anno saremo più o meno a 140.000, 14 ettari. Non bastano ancora per la produzione, perché il grano saraceno produce poco, produce circa, se ti va bene, 8-9 quintali a ettaro. Per cui è chiaro che diciamo, la rendita maggiore è sempre data dal primo cereale, che sia segale o orzo. Noi in questi anni ci siamo preoccupati di rilanciare non solo la coltivazione di questi prodotti, ma di cercare anche di creare filieri territoriali, filiere corte. Per cui abbiamo cominciato a contattare i gruppi d'acquisto solidali, i ristoratori delle nostre zone e così, e quelli sensibili si sono impegnati a prendere i nostri prodotti pagando un prezzo congruo, cioè che riconoscesse l'aspetto principale, che era quello della lavorazione a mano. Adesso ci siamo un po' meccanizzati, ad esempio abbiamo cominciato in quattro con la Gennara, altri due, e abbiamo preso 6 anni fa una mietilega per riuscire a entrare in campi piccoli, un altro ha preso una mietritrebbia usata e nei campi più grandi messi in piano abbiamo l'opportunità, la possibilità di entrare con una mietitrebbia nei campi e trebbiare sia i cereali precedenti, ma anche il grano saraceno. E tutto questo ci ha permesso, diciamo, di rendere possibile un'attenzione da parte soprattutto dei giovani e farli tornare a un'agricoltura che potesse dargli anche un reddito. Il problema principale in montagna è quello sicuramente legato alla proprietà dei terreni. Dai dati ufficiali, mediamente in Valtellina un proprietario ha 2 ettari, 3 ettari massimo di terreno. Dati della Coldiretti, per cui pensate bene che con 2-3 ettari di terreno, anche se fai buone cose, il reddito è difficile che riesci a mantenertelo e a dartelo. Quindi bisogna riflettere anche su una figura nuova che ci dovrà essere nel futuro per garantire anche un'economia a chi vive in montagna, che non è data strettamente dalle produzioni, ma sarà data anche dalla capacità di spiegare le proprie produzioni, di recuperare i terrazzamenti, farli diventare interessanti anche dal punto, spendibili anche dal punto di vista dell'offerta turistica, per quel turismo che chiamo turismo, ma preferirei dire un invito a chi viaggia a venire a conoscere una parte di montagna, una realtà della montagna, fuori dall'idea della montagna e del circo bianco. Cioè, la montagna non è solamente il circo bianco e quello che conosciamo, impianti di risalita, neve, d'inverno, mountain bike e tutto, ha tutta una sua realtà. Che va scoperta, una realtà che parte dal basso. Ad esempio, io mi sto occupando in questi ultimi mesi, su spinta anche di amici, della valorizzazione del mais. È interessante scoprire che, ad esempio, il CRA di Bergamo, che è specializzato in Italia sul mais, ha un elenco di 9 tipi di varietà di mais valtellinesi. Questo non è mai stato, diciamo, valorizzato. Se passate adesso in fondovalle vedrete tantissimo mais coltivato, ma è quello che serve per l'insilato, cioè per fare il mangimi per gli animali, con spese di acqua e tutto quello che si vuole. E diciamo, sono e siamo un po' portatori di una nuova idea di contadinità alpina. Ritorniamo a produrre i nostri prodotti tradizionali, a proporli. I prodotti tradizionali li vedete anche qui. Adesso le coste rosse, c'era qualche anziana che se le ricordava, ma erano scomparse, le coste gialle pure. Questa è una barbabietola di Chioggia che l'ho seminata dai sementi da Prospecerara. Prospecerara è una fondazione svizzera che si occupa della tutela e della salvaguardia delle risorse genetiche, delle biodiversità, non solamente vegetali ma anche animali. animali e sta lavorando molto bene, secondo me, perché permette la circolazione dei semi all'interno del territorio svizzero, ma anche fuori. Ad esempio qua ci sono una serie di patate antiche che coltivo da 4 anni e sono patate che le sementi le ho prese direttamente da Prospecerara. Prospecerara a marzo fa un mercato a San Pietro di Stabio, che è subito dopo il confine con Varese, il mercato della patata, dove potete arrivare, trovare e acquistare patate da semina antichissime, oltre a queste. Io qui ho portato queste 5 varietà, 4 varietà sono in commercio. La Parli, che è una delle varietà di patate più antiche dei Grigioni. Noi confiniamo col Canton Grigione. Io ho cercato di prendere delle patate che fossero affini al nostro territorio. L'unica, diciamo, estranea è questa, che è la patata di Verrè, che è una patata ad esempio a Valdostana, e la patata anche blu di Svezia, che è una patata che è arrivata in Svizzera tantissimi anni fa, è una delle prime patate anche che è arrivata in Svizzera e che è ritornata in coltivazione. Chiaro, tutte queste patate si può capire bene perché siano state scartate dalla grande distribuzione organizzata, sono piene di occhi. Per cui uno, se si è abituato a cucinarle come facciamo noi in Italia, dice: cavolo, qui butto via metà patata per spelarla. Bisogna imparare a fare come fanno gli svizzeri: le si lava, le si spazzola e le si cuoce con la buccia. Allora, se uno poi vuole fare i gnocchi, quando queste qua sono cotte, la buccia si leva via anche dagli occhi in maniera semplicissima. Se invece la vuole fare arrosto, la può mangiare. Io faccio coltivazione biologica, per cui la può mangiare addirittura con la buccia. Allora, ritornando un po' al grano saraceno, che diciamo è la voce della serata. Il grano saraceno noi lo conosciamo soprattutto, e lo conoscete anche voi, per i pizzoccheri e la polenta taragna. Ecco, questo qui è l'utilizzo tradizionale che conoscono tutti. Poi ci sono una serie di sottopiatti che nessuno, io li chiamo sottopiatti, poi non sono sottopiatti, che non, nessuno propone, al di là di polenta taragna, sciate e pizzoccheri, ci sono i tagliadin, ci sono da noi i pitut, sono tutte forme che sono rimaste di utilizzo della farina di grano saraceno, che sono rimaste però nelle famiglie. E i tagliadin, ad esempio, sono i pizzoccheri in brodo. Uno dice: ma come, ecco, sono un piatto che io invito chi ha l'occasione di conoscere qualche valtellinese che ha mantenuto le tradizioni, perché il problema grosso è che perdendo i cereali, perdendo i prodotti, tante volte perdi anche la tradizione del loro utilizzo, per cui vai a perdere una parte che a me piace chiamare biodiversità culturale, che è estremamente importante. Per noi in Valtellina, che è conosciuta soprattutto per la produzione delle mele e per la produzione del vino, è indispensabile, se vogliamo, a mio giudizio, rilanciare un'agricoltura di qualità e che porti un'economia duratura negli anni, non rifarci più al mercato di scala. Perché il problema grosso che vedo con gli amici, ad esempio frutticoltori e tutto, è che loro hanno un prezzo che viene deciso in Valle dell'Adige sulla mela, perché viene deciso dai più grandi produttori, le mele vengono prodotte e date e riservate alla grande distribuzione organizzata, loro non hanno nessuna opportunità e possibilità di entrare in merito alla discussione del prezzo, se non in piccole quantità. Tutti questi aspetti qua devono farci riflettere, perché il futuro della mela è un grande punto interrogativo in valle, è stata una produzione che negli anni caldi ha dato sicuramente, ha portato ricchezza, ma adesso sta portando solamente grandi incazzature ai produttori. Perché quando spendono 28-29 centesimi per produrre 1 chilo di mele e gliene vogliono dare 30, si rendono conto anche loro che il margine di guadagno non c'è. Io sono uno di quelli che spinge affinché si ritorni a scoprire le nostre produzioni antiche. Ad esempio, Valtellina, se io parlo con qualche valtellinese e gli chiedo quali sono le biodiversità caratteristiche della Valtellina, Non mi sanno dare più risposta, non c'è un censimento sui fagioli antichi, sul mais antico, su quello che c'era rimasto. Io ad esempio da anni sto cercando una patata che era famosa, che è la patata di Arigna, e questa qui è scomparsa. Arigna è sulle Orobiche, c'era questa tradizione, perché poi l'agricoltura è un atto sociale, c'era questa tradizione che a Arigna producevano queste patate che poi davano come semenza ad esempio a Teglio. A Teglio scambiavano la semenza della patata con Arigna, con Ponte scambiavano, perché Ponte una volta invece che fare mele faceva vino, scambiavano con il vino le patate, e c'era questo scambio. Il resto poi delle patate veniva prodotto a Pedenosso, veniva prodotto in Alta Valle nel Bormiese. E anche scomparendo queste patate sono scomparsi questi atti sociali di scambio tra le persone, e sono rimaste ormai la patata alpina da noi è la Kennebec, che trovi ovunque, una patata canadese fatta in laboratorio e tutto. Oggi devo dire che grazie a Prospecerara che ha mantenuto una varietà di prodotti antichi delle Alpi, li ha mantenuti perché, ad esempio, la nostra segale e il nostro grano saraceno sono sotto la protezione di Prospecerara. Cosa vuol dire? Che nei loro centri in Svizzera li seminano ogni anno per non perdere la biodiversità. Allora, io quando ho ricevuto 4 anni fa la certificazione da Prospecerara, ho avuto come regalo una bustina di semi con scritto di Prospecerara, con scritto Winter Roggenteglio. Ci sono rimasto, ho detto, segale invernale di Teglio. Dico, come mai è così? Noi è più di 20 anni che coltiviamo nel centro di Erschmatt e in un altro centro la vostra segale, perché la vostra segale è unica nel panorama delle segale alpine. Allora, mai nessuno in Italia si era preoccupato di questo. Approfondendo la ricerca, ho scoperto che l'Istituto Federale Agroscope, che ha promosso l'Istituto Svizzero, ha messo questo istituto, il governo svizzero ha messo sotto la protezione questa segale, perché viene considerata una biodiversità da tutelare. Se ci avessero magari anche da noi, in regione, in provincia, questa sensibilità, avremmo l'opportunità di riscoprire tutta una serie di biodiversità, che sono risorse genetiche a tutti gli effetti, e valorizzare i nostri territori con prodotti territoriali, che io chiamo identitari, quando dietro c'è una cultura, che è una cultura non solo gastronomica, ve lo assicuro. Ad esempio, quando abbiamo messo in piedi la comunità, questa signora qui che porta la gerla, gli ho chiesto, Gennara, sei disposta a venderci i semi? Ah, no, se vogliamo partire col piede giusto, partiamo col piede giusto. Io non ti vendo la semenza, io te ne do 5 kg, perché è questo quello che ti posso dare, quando tu fai il raccolto me li ridai. Questa era la vecchia pratica che c'era tra contadini. È una pratica che è basata sulla fiducia reciproca, è una pratica che rilancia le relazioni umane. Se andiamo, secondo me, lungo questa direzione, riusciamo a mantenere nei nostri territori queste biodiversità, a svilupparle, che vuol dire il modo migliore per tutelare tutte queste biodiversità è quello di diffonderle, non è quello di me le tengo io, ci metto il marchio e le vendo solo io, chi le vuole le viene a comprare, è quello di diffonderle. Per cui dobbiamo arrivare poi a un punto dove sviluppiamo le filiere, facciamo i prodotti, farina, pane di segale e tutto, ma garantiamo soprattutto a chi vuole ritornare ai terreni, a recuperare i terreni in montagna e a fare agricoltura in montagna, l'accesso ai semi, oltre che alla terra. E l'accesso alla terra diventa un problema perché ci sono giovani, ad esempio, che hanno fatto le scuole, valtellinesi, ma anche non, che hanno fatto università e tutto, si sono fatti magari le loro esperienze in giro per il mondo, vogliono tornare, e il problema grosso è l'accesso poi alla terra. Grazie. Scusate, abbiamo un goccio. Sì, infatti. Adesso Concludo un attimino qui sui cereali, raccontandovi il problema che abbiamo adesso. Con la Segale siamo riusciti ad arrivare a una produzione più o meno che va dai 30 ai 38 quintali all'anno. Col grano saraceno siamo qualcosa di più, siamo intorno ai 45-50 quintali all'anno. Abbiamo una grandissima richiesta da parte e soprattutto di chi vuole seminare, e non abbiamo le sementi da dare, ne abbiamo poche. Abbiamo il problema per il futuro di seminare per riuscire a provvigionarci di semi da dare ad altri che vogliono seminare e sviluppare insieme a queste persone delle proposte serie di sviluppo di queste filiere. L'anno scorso è partito un esperimento a Ponte in Valtellina, grazie a questa associazione che è nata, che si chiama Punto Ponte, e a Ponte cosa hanno fatto? Hanno messo insieme un po' di imprenditori. Uno di questi aveva un vecchio forno a doppia camera, un forno a legna, un forno da panificio, uno piccolo e così. Ha detto: no, se tu mi riesci a fornire 50 quintali di segale all'anno, io riapro. La prima cosa che gli ho detto, no, 50 quintali di grano saraceno io non riesco a fornirtelo. Quello che posso fare è fornirti quello che ho, però te lo fornisco solo se tu mi trovi giovani che vogliono seminare a Ponte grano saraceno. L'anno scorso, cioè grano saraceno e segale. L'anno scorso abbiamo fatto la prima semina nel novembre dell'anno scorso, hanno tirato fuori 2200 metri, adesso sono diventati 5000. E ne stanno acquisendo ancora, anche perché io ci terrei a fare una filiera del pane nel mio comune, a Teglio. Ponte e Teglio sono poco distanti, hanno, diciamo, penso una decina di chilometri di distanza. E c'è una differenza culturale anche qui, una biodiversità culturale. A Ponte fanno un pane rotondo di segale a pagnotta. Il pane di segale fatto a Teglio invece è a ciambella, è così. Ecco, queste differenze secondo me sono interessanti e diventano particolari perché riesce a proporre un territorio, anche la Valtellina è lunga perché è una lunga valle, però in poca distanza riesce a proporre delle diversità partendo dagli stessi prodotti. È chiaro che sviluppata questa filiera del pane, molto interessante perché ci permette di essere un po' un volano in Valtellina, un volano che ormai è partito perché lui riaprendo il forno e tutto è stato contattato dall'Unione Panificatori della provincia di Sondrio. Prima erano tre panettieri che erano ancora interessati, adesso sono diventati sei, poi due in Alta Valle e così via. C'è una richiesta del prodotto, però il prodotto non c'è, nel senso che dobbiamo andare a fare un lavoro di recupero dei terrazzamenti, approvvigionamento delle terre e così via. Trovare le persone che vogliono tornare a coltivare questi cereali. Ogni anno sono sempre qualcuno in più. Qui ne abbiamo uno che non si vuole esporre, che non vuole che io parli di lui, però è Jonathan, questo ragazzo qui, che sta recuperando vigneti abbandonati, però visto che lui è un po' è del comune di Teglio, però è un po' anche di un altro comune, nell'altro comune ha i terreni di famiglia e ha seminato la segale. Però anche qui le cose che hanno fatto tutto a mano, l'hanno fatta come gruppo di amici, alcuni si conoscevano, altri no, utilizzando la rete e hanno messo in rete questa cosa. Allora, il problema nel futuro sarà quello di sviluppare filiere economicamente sostenibili. Filiere che possano veramente portare una svolta anche dal punto di vista economico, una nuova chiave di vivere i territori. Se in ogni zona noi riuscissimo a sviluppare una filiera del pane, nostro territoriale, avremmo fatto una vittoria perché saremmo tornati a recuperare i terreni in quota e a fare coltivazioni tradizionali legate alla nostra storia, ma riusciremo anche a dare una risposta a una richiesta che è sempre maggiore di pane di qualità, di prodotti di qualità. Ecco, se avete domande da farmi, sono qui. domanda che potrebbe essere questa. L'avena non l'avete presa in considerazione? L'avena no, da noi non l'abbiamo mai coltivata. C'è qualcuno, qualche amico che ha i cavalli che ha provato a metterla e ha detto ma sì, è venuta e così via. Allora, io sono aperto un po' a tutto, nel senso che ad esempio questo qui è un frumento che non è nostro. In Valtellina erano pochissime le zone dove coltivavano frumento. Mio padre mi diceva che quando lui era ragazzo nei pizzoccheri macinavano l'orzo e usavano l'orzo per tenere insieme la farina dei pizzoccheri, perché il grano saraceno da solo o si fanno subito i pizzoccheri, si mettono subito in pentola e allora sta insieme, se no diventa secco e la pasta si rompe tutto. Questo qui ad esempio è un frumento svizzero, Bio Suisse, è un frumento antico anche questo dalla Svizzera, si chiama Fiorina, è un frumento che nonostante che cresca in montagna, un grano tenero, alla giusta quantità di glutine per permettere la panificazione. La semente l'ho ricevuta dagli amici campicoltori del Circolo Campicoltori della Val Poschiavo, Canton Grigione, una valle italiana di cultura italiana del Canton Grigione, con il quale collaboriamo perché anche loro hanno grandi tradizioni di grano saraceno. Storicamente da noi abbiamo capito che il grano saraceno è arrivato quando la Valtellina era parte dei Grigioni, del Canton Grigione, perché lo è stato per 280 anni, per cui probabilmente è arrivato da loro, l'hanno portato loro in Valtellina. Oggi abbiamo una possibilità di sperimentare coltivazioni anche non nostre, ad esempio questa qui è una barbabietola di Chioggia, chiaramente il nome è quello di Chioggia, io l'ho presa perché è interessante perché ha cerchi bianchi e rossi dentro ed è buonissima in insalata, tagliata molto fine così, e l'ho proposta. Sui cereali, sugli altri tipi di cereali, io ho sperimentato ad esempio quest'anno la coltivazione del senatore Cappelli, che mi ha portato un amico sardo, mi ha portato un pugno di semi, l'abbiamo provato l'anno scorso prima e quest'anno e tutto, però è venuta la pianta, non sappiamo se rispetta, il grano duro ha bisogno di caldo e di sole. Quest'anno non c'è stato, l'anno scorso c'è stato poco, per cui probabilmente la pianta viene, però la qualità della farina poi, se andiamo a vedere, sicuramente non è paragonabile a quella del centro-sud, che è diversa. E su queste cose qui ci stiamo un po' attenti, proprio perché a me interessano soprattutto le biodiversità delle Alpi, perché ho scoperto che abbiamo una ricchezza enorme, ho scoperto che c'è tantissimo da fare. Ad esempio con un amico che insegna all'università agraria qua a Milano, Fausto Gusmeroli, gli ho chiesto di darmi una mano per riuscire a coinvolgere scuole e tutti i cittadini in una ricerca delle piante antiche che sono rimaste in Valtellina. Dall'anno scorso io, tanto per divagare un attimino, partecipo a un progetto promosso da Save Foundation, che è un'organizzazione internazionale, che è un progetto legato alla pecora ciuta. La pecora ciuta è una pecora piccola, è la pecora più piccola delle Alpi, ha le corna sia il maschio che la femmina, arriva direttamente dal Paleolitico. Di questo tipo di pecora ce ne sono tre, e una è nei Grigioni a Montefiore e una è in una valle austriaca che confina con i Grigioni e un'altra è da noi la ciuta proprio. Sono tre varietà che hanno caratteristiche simili perché la femmina ha le corna e tutto, piccolissima, arriva massimo 38 kg, si arrampica fino in cima alle montagne. E questa pecora qui rischiava l'estinzione. In sostanza c'era un documento del Centro Nazionale delle Ricerche che diceva che era una pecora, però nessuno mai ha fatto niente. È dovuto venire Ape Grunenfelder, un genetista, il fondatore di Prospecerara, e Kurt Gustav Stascher, che è un biologo contadino dell'Alto Adige, a proporci di fare questa caccia a questa pecora. L'abbiamo trovata l'anno scorso in Valmasino, abbiamo fatto prima quattro gruppi, adesso i gruppi sono diventati 14, perché questi gruppi, perché questa pecora qua negli anni, proprio perché era piccola, su consiglio dei veterinari era stata in sostanza ibridata con la bergamasca per farla più grossa, per avere una rendita di vendita di carne più grossa. Adesso stiamo facendo un ragionamento tutto all'incontrario, stiamo facendo un ragionamento di ritornare alla razza primordiale, visto che poi alcuni capi avevano ancora tratti legati proprio alla razza originale, ma nello stesso contempo stiamo sviluppando una filiera legata possibilmente alla carne e alla lana. La lana, ad esempio, è una cosa particolare perché un filo di lana è fatto da tre fili, è una lana non particolarmente morbida, ma è una lana molto molto resistente. E anche qui sulla lana, sulla pastorizia ci sarebbe da aprire tutto un discorso particolare, perché hanno visto bene i legislatori europei, visto che i pastori non riescono più a vendere la loro lana, di far diventare la lana un rifiuto speciale, per cui non riesci a venderla e in più devi pagare per smaltirla. Io sto sperimentando con, in collaborazione con gli amici della Val Camonica, un progetto di utilizzo della lana in pacciamatura, cioè io utilizzo un metodo che è quello delle aiuole rialzate, sono bioaiuole che sono alte più o meno come il tavolo, scavate sotto, riempite a strati di materiale in decomposizione e tutto, circondati poi io ci ho messo da una parte una rete e paglia di segale, normalmente si fanno con la paglia, e invece di utilizzare la paglia ho cominciato a utilizzare questa lana, e si sta utilizzando anche ogni settore che è legato ai prodotti territoriali antichi e così via, sono settori che per la maggior parte sono stati messi in crisi da legislazioni veramente incomprensibili. Tornando ai cereali, prendo questo esempio qua, io ho la certificazione bio con ICEA. L'anno scorso, il 23 di agosto, dopo 3 anni di conversione, ho avuto la certificazione bio, il 28 di settembre me l'hanno tolta perché non faccio la pratica di sovescio tra una coltivazione e l'altra. Al che ho preso il telefono e ho detto, no ma scusate, qui sono 400 anni che noi seguito mietuto orzo e segale nello stesso campo seminiamo il grano saraceno. Nel biologico è vietato. Nel biologico devi saltare la produzione del grano saraceno, devi fare la pratica del sovescio. No, qua non ci siamo. Sono arrabbiato e tutto, parlarne. No, allora, visto che gli ho raccontato un po' com'è la faccenda, nel senso che se per 400 anni le popolazioni alpine hanno saputo garantire con la rotazione che facevano loro la fertilità del terreno, le produzioni alimentari per garantirsi di mangiare, vuol dire che la cosa funziona. Al che mi ha detto, no, qui la deroga gliela deve dare la Regione Lombardia, faccio una relazione, ho fatto una relazione, io l'unica cosa che ho aggiunto nelle mie coltivazioni è l'inserimento del trifoglio nano repens, che serve per limitarmi le infestanti e arricchirmi il suolo di azoto. Gli ho mandato la relazione alla Regione Lombardia, la Regione Lombardia mi ha detto, no, ma non siamo noi a darle la deroga, è il MIPA a Roma. Al che lì mi sono detto, ma come, 20 anni padroni a casa nostra, 20 anni che sono dentro lì, che dicono che le cose le decidiamo noi sul territorio e poi le deve decidere ancora il Ministero a Roma, allora è una palla sto qui, è una palla. Ecco. In sostanza io a marzo di quest'anno ho avuto la deroga, ma non per me basta, io l'ho chiesta per tutte le popolazioni alpine che coltivano, perché grano saraceno e segale veniva coltivato in tutte le Alpi, anzi veniva coltivato anche nell'Appennino, e da una ricerca fatta abbiamo scoperto che era coltivato sino alle Madonie. Io sono stato in Cilento e mi hanno detto che si ricordano e sanno che anche in Cilento coltivavano il grano saraceno. Per cui è un bene che è rimasto in Valtellina, però è anche un bene sapere che erano coltivazioni tradizionali di tutte le popolazioni di montagna. Ora, abbiamo queste leggi che secondo me, ad esempio quelle del biologico, ormai sono fatte esclusivamente per l'agro bioindustriale, sono decise a Bruxelles per chi produce ormai in maniera massiccia il biologico, però non tutelano per niente assolutamente le pratiche antiche che avevano popolazioni marginali, chiamiamole come quelle alpine. E qua ci sono tutti i miei ripensamenti rispetto poi anche alla certificazione biologica, che a questo punto mantengo solo, e qua sono chiaro, come scelta commerciale. Perché io facevo biologico prima di essere certificato, continuo a farlo, è una mia scelta etica e voglio continuare a farlo. Punto. È chiaro che bisognerà cercare delle formule. Sto guardando a Genuino Clandestino, domani sono a Sondrio a fare uno spettacolo teatrale, questi contadini, e dopo ci sarà un incontro con altri contadini, ci incontreremo insieme, vorrò che mi spieghino bene come funziona ad esempio la loro scelta e come può essere garantita dal prodotto. La maggior parte di loro mi sta dicendo che loro fanno piccole cose che vendono direttamente, non gli interessa il grande mercato, per cui dice, la maggior parte dei nostri clienti li conosciamo, l'azienda la teniamo aperta, cosa che faccio anch'io, per cui chi vuole passare o mi dà un colpo di telefono viene e vede come lavoro, ecco, è così. Scusa, a tal proposito, una parentesi, a tal proposito, rispetto, non importa, rispetto alla questione biologica, no, ma...